Buongiorno Andrea, ben ritrovato. Grazie, buongiorno William, buongiorno a tutti. Come stai intanto? Perché in questo momento è un po', depresso. Appunto, capisco perfettamente, ti mando un abbraccio a distanza perché una settimana fa, come ho detto più volte con Nicola, carichi insomma di entusiasmo, adesso improvvisamente ci ritroviamo un po' in una maniera di difficoltà e chiusura, quindi un fermo che vede queste sedi teatrali non solo in difficoltà già da prima, perché certamente in Italia non è che la cultura sia così caldeggiata, oltretutto la pandemia, le emergenze, le contraddizioni in tutto ciò. Andrea, io ti chiedevo innanzitutto, certamente la contraddizione principale è che le misure sono state prese, fra l'altro, all'interno dei teatri, immagino sicuramente, come anche da ITC Teatro, Andrea. Assolutamente sì, era un dovere, come dire, morale prima ancora che di legge, mettere in sicurezza i luoghi per i lavoratori, per gli spettatori. Certo. Quindi i teatri, come insomma è stato ampiamente detto e raccontato in questi giorni, sono tra i luoghi più sicuri, sia per appunto le regole che vengono rispettate, si misura la temperatura all'entrata, c'è distanziamento, gli spettatori stanno a distanza di sicurezza di un metro, tengono la mascherina, i lavoratori, che insomma, anche quello ci dimentichiamo sempre, che dobbiamo creare le condizioni ovviamente più sicure anche per chi ci sta dentro il teatro a lavorare, dagli attori che hanno tutta una serie di regole su come si sta seduti in camerino, su come si sta sul palco, a tutta la parte tecnica. Cioè noi negli ultimi mesi abbiamo imparato a convivere con gel sanificanti, con guanti, con spostamento degli attrezzi di lavoro e delle scenografie seguendo rigidi protocolli, quindi da quel punto di vista lì sicuramente nulla a che vedere, senza come dire fare paragoni, però nulla a che vedere rispetto a quando vado a fare la spesa, dove ovviamente la gestione o con la movida, carrelli, che spesso o con la movida. quando ci iniziamo a muovere tutti insieme in luoghi meno controllati, ovviamente è molto più facile fare errori, mettiamola così. Invece dentro i teatri gli errori non si fanno, si è sempre molto controllati, anche perché è la condizione necessaria poi per divertirsi, no? Quindi quando siamo tranquilli, bisogna finalmente spegnere le luci e iniziare a vedere lo spettacolo. Certo, indubbiamente, e poi soprattutto vi è un motivo per trovare anche altri palcoscenici. Nella difficoltà molti teatri hanno deciso anche di spostare lo spettacolo, soprattutto in un periodo dove ancora c'è la possibilità di stare un po' fuori, di trovare motivo di dare la stessa possibilità in sedi alternative. È una cosa, una possibilità in più tutto questo. E come è stata vissuto, com'è vissuto tutto ciò dall'ambiente in generale all'interno da ITC? Com'è il morale della truppa, ti chiedevo? Allora, intanto il morale è provato da anche dai mesi precedenti. Già da prima. Sì, inevitabilmente, insomma, noi da fine febbraio abbiamo smesso quasi tutte le nostre attività, che non è solo quella di organizzare spettacoli, ospitare pubblico all'interno della sala, ma è lavorare dentro le scuole facendo laboratori con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti, nelle nostre sedi, e lavorare magari con le fragilità, dai ragazzi della Dozza in carcere, agli amici di Luca su Albellaria, con il teatro, diciamo così, che si fa parte diligente, si mette a disposizione anche così della comunità. Ecco, tutto questo si è fermato già da allora, con tutte le conseguenze anche economiche, quindi in maniera brutale. Quello. Il rubinetto delle entrate è chiuso da marzo. E viceversa, almeno l'ITC, almeno il Teatro dell'Arge, è una struttura che ha 30 dipendenti, che insomma bisogna sempre anche un po' ricordare che siamo delle imprese, insomma. Con la cultura non si mangia, è una frase per fortuna relegata al passato, anche se ancora molti lo pensano. Dovete immaginare che ci sono, almeno ripeto, all'ITC 30 famiglie che vivono, che pagano le bollette con l'indotto, diciamo così, delle attività teatrali. Quindi il fatto di avere, come dire, chiuso i rubinetti è anche proprio un problema che ha a che fare con la sopravvivenza. Voglio essere drammatico, però insomma c'è un intero pezzettino di persone che in questo momento grazie, poi insomma noi siamo anche fortunati, abbiamo contratti che ci consentono qualche ammortizzatore sociale, quindi stiamo cercando di fare di tutto per far passare la nottata, però tutto il comparto in generale è in sofferenza. È un comparto dove spesso i contratti sono atipici, quindi non ci sono ammortizzatori, quindi non lavorare da febbraio vuol dire in questo momento probabilmente essere fortemente in difficoltà e forse anche avergliela data su, quindi essere, come dire, in questo momento a fare altro, e forse non torneranno più a fare quello che facevano prima, quindi ci sarà anche un impoverimento proprio delle proposte, della molteplicità di voci, di cose belle che c'erano prima e che insomma, poche sopravviveranno. Questa purtroppo è la storia, qui stiamo andando incontro. Il pericolo di essere demotivati. Certo. Ah, assolutamente sì. Quindi la situazione è un po' quella lì. Detto questo, siamo una categoria che è creativa, che è abituata a fare le nozze con i fichi secchi, quindi in qualche modo, cercando di non essere così troppo romantici, la speranza è che se c'è un gruppo di persone che potranno inventarsi nuovi modi per ripartire sono i teatranti. Speriamo, un auguro che faccio a me e agli altri colleghi. Certo, contatti con le istituzioni ve ne sono stati? Allora sì, e questo forse in questo, soprattutto nell'ultimo DPCM, è forse il problema più grosso. C'è una una zona grigia nei vari documenti che escono proprio da Roma. Una zona grigia che non contempla cosa si può e cosa non si può fare al di là di quello che il normale normatore pensa essere il teatro. Mi spiego. Nell'ultimo DPCM si fa chiaramente riferimento al fatto che i teatri devono essere chiusi e quindi che non ci devono essere spettacoli dal vivo, quindi sostanzialmente non si può sbigliettare, no? Non posso fare entrare il pubblico per fargli vedere uno spettacolo. Non c'è nulla che parli di, per esempio, le attività laboratoriali, che ritengo scherzando, sono la parte fondamentale non solo dell'ITC, come sapete siamo particolarmente attivi in quel settore, sì. Lì sia lavorando dentro le scuole sia lavorando invece con i privati e i cittadini che hanno voglia di passare 2 ore la settimana con noi facendo teatro, ma direi che ormai in tutta Italia, insomma, se togliamo poi le grandi istituzioni che sono più come dire, vicine al vecchio modello di apriamo alle 9 di sera, facciamo lo spettacolo, chiudiamo, tutti gli altri difatti i laboratori sono una parte fondamentale anche economica, e quella parte lì non è normata. E proprio in questi giorni stavo vedendo sia su Facebook, che sembra grande cattiva al tornasole, cosa succede, come dire, alla base. Nel bene e nel male. Esatto, sia nelle invece anche telefonate che facciamo con i nostri colleghi, veramente da nord a sud stiamo tutti cercando di capire se per esempio ripartire a fare i laboratori è consentito oppure no. Tu la domanda me la facevi sulle istituzioni, perché anche le istituzioni spesso si trovano, certo, in difficoltà di fronte a questa domanda. Noi siamo in contatto con la regione da 4 giorni e con loro stiamo cercando di interpretare un decreto che in quella zona lì lascia ampia margine purtroppo di interpretazione, e in queste cose nessuno poi si prende la responsabilità di interpretare, no? Siccome non c'è scritto, allora lo facciamo. E se si può fare o no, capirlo, e quindi chiedere a chi di dovere di specificarlo, può fare veramente la differenza tra la sopravvivenza e la morte. Se noi potessimo fare qualche laboratorio, vada, anche i laboratori sono assolutamente in sicurezza, cioè i nostri allievi fino all'altro ieri stavano a 2 metri di distanza uno dall'altro con la mascherina, quindi stiamo parlando di situazioni dove da soli è molto difficile muoversi, quindi il rapporto col tuo comune, con la tua regione, e magari attraverso loro riuscire ad avere accesso a chi a Roma scrive decreti, ma non per fare pressione lobby, semplicemente per avere chiarimenti. Ecco, questa filiera istituzionale, più sta vicino a noi sui territori in trincea, più forse riusciamo a salvare sia l'aspetto ovviamente sanitario di sicurezza eccetera, sia quello economico, che è l'altro problema, insomma, non c'è che lo sia a dire, che attanaglia in questo momento tutti noi che lavoriamo in tutti i settori, cioè da una parte il problema speriamo di non ammalarci, dall'altra speriamo di arrivare alla fine del mese. Di riuscire a portare avanti, certo. No, come ti dicevo prima, sicuramente siamo tra i luoghi più sicuri, che hanno anche investito di più, nella sicurezza. Lì, insomma, volendo immaginare che ci sia una ratio nel normatore che ha deciso di chiudere il teatro e cinema, certo non è perché all'interno degli spazi c'è un rischio reale, insomma. non lo so, voglio immaginare che sia stato fatto in maniera molto superficiale, perché comunque le ricadute sono pesantissime, in un generico tentativo di tenere la gente a casa. Allora, già che ci siamo, tutto quello che è attività dopo una certa ora la chiudiamo, facciamo finta che sia questo, non che questo giustifichi questa decisione, però voglio pensare che almeno abbiano preso in considerazione il fatto che effettivamente le sale cinematografiche e i teatri sono davvero tra i luoghi più sicuri, cioè mettiamo in pratica tutto quello che molti altri spazi non fanno, e abbiamo investito anche solo di tasca nostra, perché non dimentichiamoci che poi non è che ci sono stati aiuti di Stato, ci sono state alcune possibilità di accedere a dei rimborsi parziali, sì, dell'investimento fatto sulla sicurezza, ma ogni struttura già in crisi, già chiusa, come ti dicevo, da marzo, ha investito migliaia di euro per essere in regola, quindi sicuramente la chiusura in questo momento è devastante. Però ecco, facciamo finta che, lo dico contro ogni mio interesse personale, anzi, facciamo finta che questo sacrificio enorme, enorme, che avrà conseguenze enormi, come ti dicevo prima, anche su proprio le bollette da pagare a fine mese per decine e decine di migliaia di famiglie in Italia, possa essere se non un sacrificio per salvare, come dire, per aiutare tutti a stare un po' più in casa, quantomeno a far capire alle persone che bisogna comportarsi meglio. Cioè, vuoi il teatro, allora metti questa mascherina senso, anche quando vai in giro, sennò se no facciamo tutti senso, certo, certo, proviamo a farci parte diligente ancora una volta. Ripeto, poi sono il primo che poi si arrabbia e vorrebbe scendere in piazza, e lo facciamo, ci sono manifestazioni nei prossimi giorni che cercano in maniera ancora una volta in sicurezza. Non so se hai avuto modo di vedere a Milano, certo, qualche giorno fa le immagini bellissime, in qualche modo poetiche, di una protesta fatta da un intero settore, in quel caso dei tecnici di teatro, che in qualche modo obbediscono ma denunciano. Okay, sì, chiudiamo, una protesta, però, la famosa protesta civile, ecco. Cioè, facciamo quello che ci dite, però ragazzi, bisogna che ci sediamo intorno a un tavolo, perché la prossima volta lo dobbiamo far meglio, sì. se no non ci sarà una prossima volta. È un disastro e sulle spalle di realtà assolutamente importanti, soprattutto in un momento come questo. Seconda doccia fredda in una situazione, poi tra l'altro, come dicevo, la settimana scorsa ci eravamo sentiti per presentare i percorsi di ripresa. Adesso appunto è ancora un po' fredda questa doccia, dico gelata, però si sta già pensando, immagino, anche a come riprendersi. Sì, saremo in questo momento, noi sappiamo che l'orizzonte è quello del 24 novembre, ma insomma sembra, diciamo che ci stiamo preparando a una chiusura più lunga, ecco, mettiamola così. Quindi la prima idea, che era quella ovviamente di riprogrammare entro breve le date perse, rischia di essere un breve a medio termine. Potremmo dire che lo spettacolo che salterà, che doveva aprire la stagione, che era Sandro, lo spettacolo su Sandro Pertini, di Andrea Santomastaggio, di Bonazzi, scrittore di San Poli, doveva debuttare da noi questi giorni, l'11 di novembre. Allora la prima idea è quella di spostarlo ovviamente a dicembre, ma sappiamo che forse dicembre non sarà possibile, quindi forse sarà un debutto più in là. Nel frattempo, a questo punto, visto che forse i tempi si fanno lunghi, ci stiamo immaginando ovviamente di andare sul web, ma non con lo spettacolo, perché insomma cerchiamo di evitare di far finta che sia la stessa cosa. Viceversa, cercheremo magari proprio, chissà, nei giorni in cui avrebbe dovuto debuttare, di fare un focus, di entrare magari in sala prove, di intervistare i protagonisti, certo, cioè di fare un po' dietro le quinte, e metterlo a disposizione online, sempre per tenere quel canale aperto con tutti, certo, i nostri spettatori, amici, affezionati, membri della comunità. E così faremo, e stiamo immaginando anche di spostare online qualche laboratorio, ma anche lì, sai, il laboratorio di teatro, cioè, come dire, un corso di tango fatto online, non è proprio la disciplina giusta metterlo online, però magari qualcosa che possa avere a che fare anche con un po' di creatività, con la recitazione cinematografica. Magari lavoreremo con i nostri allievi su qualche bel monologo di qualche bel film, dove la telecamera, e quindi in questo caso la webcam, possono essere essere giustificate. Certo. Insomma, un po' di creatività, come ti dicevo. Esattamente. Se non arriva dal teatro. Esatto, e se nel primo lockdown era un po' un tenersi compagnia in un momento in cui eravamo tutti molto fragili, chiusi ermeticamente nelle nostre case, adesso dobbiamo invece cambiare passo, e se saremo chiusi nelle nostre case, come siamo in questo momento almeno noi del teatro, l'invenzione dovrà essere un'invenzione più meno di compagnia e più di meno per tenerci compagnia e più per far ripartire in qualche modo, sì, una macchina che ferma non può proprio stare, pena la chiusura definitiva di moltissime realtà. Quindi inventeremo cose sul web per sopravvivere in attesa di ridownloadarci dentro le sale teatrali. La realtà.